ad alta voce. Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 18ª puntata. Il 2 gennaio 1964, il giorno prima della partenza per Dhaka, la nonna ricevette una lettera. Era di Maya Devi. Aveva impiegato 10 giorni ad arrivare a Calcutta via Delhi con il bagaglio diplomatico. Maya Devi scriveva di non aver potuto andare alla loro vecchia casa perché era stata occupatissima. Inoltre, il posto in cui abitavano adesso era molto lontano da Jindabahar Lane. Per di più, le loro possibilità di movimento, in quanto diplomatici indiani, erano limitate, come potevano immaginare. Comunque, aveva fatto svolgere delle indagini e aveva avuto un vero colpo di fortuna. Aveva scoperto che uno degli autisti dell'alta commissione conosceva qualcuno che viveva nella loro vecchia casa, un certo Saifuddin, un meccanico che aveva messo su un'officina nel loro vecchio cortile. «Un'officina!» esclamò la nonna. «Nel nostro vecchio cortile! Che ne sarà del vecchio albero del pane?» L'autista aveva accompagnato Saifuddin da Maya Devi. Era un uomo gentile, molto raffinato nel parlare ed educato. Veniva da Motihari, in Bihar. Era arrivato nel Pakistan orientale con nient'altro che la sua numerosa famiglia ed era riuscito a mettere in piedi una florida piccola impresa. Secondo il suo autista, era il miglior meccanico di Dhaka. Saifuddin, al quale aveva chiesto notizie del vecchio Jetamoshai, nominandolo come Sri Goshto Bihari Bose, in un primo momento non aveva capito di chi stesse parlando. Sembrava che lo conoscesse come Ukil Babu, perché ancora di recente aveva redatto dei testamenti e delle deposizioni scritte. Ogni tanto era persino andato in tribunale. Adesso, però, aveva aggiunto Saifuddin, era costretto a letto e la sua mente era molto confusa. Gli capitava spesso di non riconoscere persone che frequentava da anni. Per sua fortuna, era accudito da una famiglia a cui aveva offerto riparo molti anni prima, ma erano poverissimi. La loro unica fonte di guadagno era un rickshaw a pedali, perciò probabilmente non avrebbero potuto garantire il sostentamento del vecchio per molto tempo. Era davvero provvidenziale che i suoi familiari fossero venuti a Dhaka proprio adesso. Sembrava un disegno di Dio. Forse per il vecchio era giunto il momento di godersi i suoi ultimi giorni in pace e tranquillità con i propri familiari come si meritava. Dunque, scriveva ancora Maya Devi, l'intuizione di mia nonna si era rivelata esatta. Era chiaro che dovevano fare qualcosa per quel povero vecchio, ma avrebbero preso una decisione quando fossero stati tutti a Dhaka. Lei, intanto, avrebbe potuto portare un piccolo dono per Saifuddin, visto che si era reso così utile, forse un bel sari indiano per sua moglie. La nonna sventolava la lettera con una tranquilla aria di trionfo. Non era sorpresa, lo aveva sempre saputo. Ma quando tutti furono fuori portata d'orecchi, mi strinse allegramente e disse: «Sono così contenta che Maya non sia ancora andata nella vecchia casa. Non volevo che ci andasse per prima». Più tardi, quella sera, disse che voleva che dormissi nella sua stanza. Sentiva già la mia mancanza. Avevo sperato che me lo chiedesse. Mi piaceva dormire nel suo letto e ascoltare le sue storie. Tuttavia, quella sera c'era anche un altro motivo più importante. Avevo deciso che quando fossi stato solo con lei, le avrei ripetuto ancora una volta tutte le istruzioni per il viaggio in aereo. Avevo la sgradevole impressione che l'ultima volta non mi avesse ascoltato. Così, non appena si infilò nel letto accanto a me, ricominciai dall'inizio. Si sarebbe ricordata di allacciarsi le cinture e di tenere un sacchetto a portata di mano nel caso si fosse sentita male, di non parlare del paracadute sotto il sedile del pilota? Rise e mi ordinò di dormire, ma mi rifiutai. Non avrei dormito senza una storia. Così cominciò una delle sue storie di Dhaka sulla vecchia casa e i suoi abitanti, ma la sua voce si trascinava stancamente e quando arrivò al negozio di dolciumi di Kana Babu si dimenticò completamente di me, sgusciò fuori dalla zanzariera e spinse la sua poltrona prediletta vicino alla finestra. Quando mi addormentai, era ancora là che fissava l'oscurità indistinta del lago. Al mio risveglio la casa era già sottosopra per i preparativi per la partenza. La mamma era in cucina a sovrintendere l'impacchettamento di 3 diversi tipi di shandesh. La nonna era eccitatissima, doveva scegliere un sari per la moglie di Saifuddin, chiudere le valigie e verificare di averci messo tutte le sue medicine. Soltanto May sembrava non condividere quell'eccitazione. Non riuscivo a capacitarmi di come potesse starsene tranquillamente in camera sua a suonare il flauto come se fosse un giorno qualunque. A mezzogiorno uscimmo di casa diretti al Dum Dum Airport. Passammo a prendere Tridib a Baliganj Place. La nonna ridacchiava come una scolaretta, non riusciva a credere di essere davvero in procinto di volare. Al Dum Dum ci salutammo, poi loro vennero inghiottiti dall'ufficio immigrazione e dalla dogana e noi salimmo alla terrazza sul tetto per assistere al decollo. Ci volle più di mezz'ora prima di vederli comparire, 3 figurine sottili sulla pista. Sapevano che li stavamo guardando, perciò si diressero verso l'aereo con la riservata consapevolezza degli attori dilettanti quando entrano in scena in un grande teatro. Quando raggiunsero la scaletta del Fokker Friendship nuovo di zecca, la nonna si voltò e fece un segno di saluto nella nostra direzione. La macchia bianca del suo sari risaltava sullo sfondo nero dell'asfalto. Restituimmo il saluto, pur sapendo che non sarebbe riuscita a vederci. Poi una hostess li invitò a oltrepassare il portellone e loro sparirono alla nostra vista. Ma pochi minuti dopo io scorsi un viso al di là di un finestrino, come un cameo, e agitai selvaggiamente la mano, sicuro che fosse la nonna. Il portellone venne chiuso con forza, la scaletta allontanata e l'aeroplano cominciò a muoversi. Si girò lentamente e passò strepitando sulla pista con un goffo movimento oscillatorio. Smisi di sventolare la mano. Era difficile credere che quell'oggetto lento e sgraziato avesse l'audacia di lanciarsi verso il cielo. Arrivò a un'ampia zona di stazionamento, si girò di nuovo e puntò il muso verso la pista. Rimase immobile per un lungo momento, sembrava che la sua energia si fosse dissolta. Sull'aeroporto calò il silenzio. Poi le eliche si misero in moto e in un attimo ruotarono a tale velocità che si confondevano con il luccichio dell'asfalto bollente. Continuavo a fissare il finestrino della nonna. Era il terzo, partendo dalla porta posteriore. Ero sicuro di vederla sorridere mentre salutava dal finestrino. Poi l'aereo tremò tutto e un fremito attraverso la fusoliera. Prese a rotolare lungo la pista con i motori urlanti e il corpo d'argento che rifletteva il bagliore del sole di mezzogiorno. L'impaccio era svanito. La potenza dei motori dava alla lunga fusoliera la scarna tensione muscolare del collo di un airone in pieno volo. Poi schizzò lungo la pista. Il finestrino della nonna si trasformò in una bianca sagoma allungata. Il muso si sollevò con molta grazia e poi, di colpo, incredibilmente, quell'immenso corpo metallico cavalcò nel cielo. Mentre l'aereo disegnava cerchi nell'aria sopra di noi, mia madre si concesse finalmente un lungo e profondo sospiro di sollievo. Fino a quel momento non era riuscita a credere che la nonna sarebbe andata a Dacca. Anche mio padre sospirò, ma in modo del tutto diverso. «È un bene che siano partiti», disse. C'era qualcosa nella sua voce che spinse mia madre a chiedere «Perché c'è una ragione particolare?» Lui si grattò l'orecchio. «Si dice che qui potrebbero esserci dei disordini. Sono contento che siano andati all'estero. Soprattutto per me, laggiù saranno lontani da tutto ciò». «Quali disordini?» chiesi io. Mia madre lo guardò con cipiglio e fece un rapido cenno col capo. Così lui si girò verso di me, indicò l'aeroplano e disse «Niente, niente che tu possa capire». Restammo a guardare l'aeroplano fino a quando sparì oltre l'orizzonte. Anni dopo, Roby mi raccontò che la prima cosa che la nonna aveva detto a Maya Debbie quando si erano incontrati all'aeroporto era stata «Dov'è Dacca? Non riesco a vedere Dacca». Allora cercai di vedere Dacca come doveva averla vista lei quella notte seduta davanti alla finestra. Ma io non ero mai stato a Dacca e in ogni caso la sua Dacca era svanita da tempo nel passato. Potevo basarmi solo sui suoi ricordi e anche quelli mi fornivano soltanto una sbiadita fotografia virato seppia di altri suoi arrivi a Dacca decenni prima. Una fotografia di cui potevo confusamente vedere in secondo piano una macchina a vapore nera e sbuffante fumo e una lunga fila di carrozze che si interrompe nell'angolo a destra. In primo piano una banchina molto riparata, facchini, venditori e una folla di parenti che sgomitano per andare incontro ai nuovi venuti non appena scendono dal treno. Sullo sfondo si intravedono forse i minareti di una moschea. Posso cercare di indovinare i contorni dell'immagine che resisteva nella sua mente, ma non ho la minima vaga idea dei suoni e degli odori che lei ricordava. Forse non erano diversi da quelli di ognuna delle migliaia di stazioni ferroviarie del subcontinente. D'altro canto, forse, consistevano in una miscela alchemica di suoni del dialetto e dell'odore di fiumi immensi, amplissimi, che sola aveva il potere di darle quel confortevole languore che chiamiamo sensazione di essere di nuovo a casa. In ogni modo, la prima cosa a cui era del tutto impreparata era l'aeroporto di vetro e linoleum, identico a quello che aveva appena lasciato. Né era preparata al tragitto in macchina fino alla casa del Shaheb, lungo una strada dritta, fiancheggiata da alti eucalipti e da qualche bungalow di periferia. A me piacque, disse, è tanto più ariosa di Calcutta. Ma quanto alla nonna, continuava a dire, non ho mai visto niente di simile. Dov'è Dacca? La Dacca a cui stava pensando era la città che un tempo circondava la loro vecchia casa. Mi aveva parlato spesso di quella casa e di quel vicolo. Potevo vederli io stesso, sebbene solo per frammenti, perché la memoria che lei ne conservava aveva brillato su di essi con la luminosità intermittente del fascio di luce di un faro. Così, ad esempio, potevo vedere con assoluta chiarezza il negozio di dolciumi di Cana Babo in fondo al vicolo. Potevo vedere persino il cham cham rosa ammucchiato nei vassoi, lo chandage preparato di fresco, disposto in mucchi ordinati sotto il vetro incrinato e scolorito del bancone. Potevo sentire il ronzio delle mosche e vedere Kana Babu, curvo dietro la cassetta del denaro che si gratta la pancia, lo stesso Kana Babu che una volta aveva pescato suo cugino intento a rubare una rosogolla e gli aveva rovesciato sul davanti dei calzoncini un recipiente colmo fino all'orlo di sciroppo appiccicoso. Potevo vedere tutto questo perché la gente come mia nonna, che non ha casa se non nella memoria, impara con grande abilità l'arte del ricordare. Per me il negozio di dolciumi di Kana Babu in fondo al vicolo era reale quanto quello giù nella nostra strada e tuttavia non saprei dire se il vicolo fosse pavimentato o no, se fosse diritto o se svoltasse, e nemmeno se avesse canali di scolo che lo percorrevano in lunghezza. La nuova casa di Maya Devi si trovava all'altro capo della città, a Dhanmundi. A causa di tutto ciò che Roby mi raccontò in proposito, quel nome, Dhanmundi, divenne uno dei suoni segreti della mia infanzia, come il tambureggiare del dugdugi dell'uomo scimmia e il tintinio dei campanelli del carretto del gelato Magnolia nell'immobilità dei pomeriggi afosi. Divenne parte della mia mappa segreta del mondo, una mappa di cui io solo conoscevo le chiavi e le coordinate, ma che non era per questo meno reale della combinazione di una cassaforte per un banchiere. Non avrei potuto evitare il nome di Dhanmundi nemmeno se l'avessi voluto. Nei primi anni 70 compariva dovunque, nei libri, sui giornali, talvolta mi sembrava che ogni cosa che accadeva nella capitale del neonato Bangladesh accadesse a Dhanmundi. Era là che i ministri rilasciavano le loro dichiarazioni e i diplomatici occidentali, senza nome ma fidati, si confidavano con i giornalisti, dove lo sceicco Mujibur Rahman viveva e dove morì un mattino quando uscì sulla terrazza per andare incontro ai suoi assassini in uniforme, incapace di credere che costoro, vestiti delle uniformi ricevute da lui, rivolgessero le armi contro il loro liberatore. Leggendo nelle cronache sui giornali, ero solito chiedermi se, qualora Roby, tredicenne, fosse stato ancora là, avrebbe udito i primi colpi d'arma da fuoco che uccisero la guardia del corpo dello sceicco e sarebbe corso sul tetto e avrebbe visto il corpo dell'anziano uomo schiantarsi al suolo perdendo sangue prima che Nityananda o sua madre gli corressero dietro per le scale e gli chiudessero gli occhi con le mani sussurrandogli affettuosamente: «Non guardare, è soltanto un gioco». Tuttavia, nel 1964, Dhanmundi era a malapena un progetto dell'elegante sobborgo che sarebbe divenuta in seguito. Era una zona di terreni incolti, scavi per fondamenta allagati, mura perimetrali che non racchiudevano null'altro che polvere ed erba e poche enormi case cintate che sorgevano come catafalchi su strade che esistevano solo per convenzione dal momento che non avevano una superficie che le distinguesse dai campi circostanti. Così mia nonna, che forse era alla ricerca di negozi di dolciumi e vicoli, quando vide la casa del Saheb a Dhanmundi, non poté fare a meno di esclamare: «Ma questo è per stranieri, dov'è Dhaka?» E Tridib non riuscì a resistere al malizioso piacere di rilevare: «Ma tu sei una straniera adesso. Sei tanto straniera quanto me, molto più di me, perché guardala, non ha neppure bisogno di un visto per venire qui». A quel punto mia nonna posò su me un lungo sguardo stupito e disse: «Sì, sono veramente una straniera qui, tanto straniera quanto me in India e Tagore in Argentina». Poi diede un'altra occhiata alla casa e scuotendo la testa disse: «Qualunque cosa possiate dire, questa non è Dhaka». Invece era una bella casa per viverci a 13 anni. Un posto fantastico per Roby. aveva un grande tetto spazioso e ventilato, il più adatto che si potesse desiderare per far volare gli aquiloni. Su quel tetto era sufficiente sollevare un aquilone e subito il vento ve lo avrebbe strappato dalle mani facendo tintinnare la corda adorna di vetrini e in un attimo sarebbe stato così distante che non sareste più riusciti a vederlo né avreste avuto il tempo di provarci perché tutto quanto si poteva fare era tenere stretto il filo. Come tutte le altre case di Dan Mundi, anche la loro aveva un alto muro che correva intorno. Sul retro, appena al di là del muro, c'era un laghetto dove i pescatori venivano a tentare la sorte nel pomeriggio. Di solito era un laghetto calmo, piatto, ma nel periodo dei monsoni, quando i grandi cicloni della baia del Bengala colpivano Dacca, quel laghetto si imporporava rispecchiando il cielo e si alzava col vento e si scagliava sulla casa riversandosi oltre il passo Carraio, nelle strade dall'altra parte. E quando ciò accadeva, Nityananda, il cuoco, correva nella strada allagata, armato di un vecchio sari, spingeva i pesci nelle pozzanghere del garage e li tirava su con un ramaiolo. Oppure teneva là i pesci per giorni, in un recipiente di terra cotta, e correva nel garage a sceglierne uno fresco ogni volta che voleva. Sul retro c'era un cortile cintato, attorniato di palme da cocco e piante di papaya. Nityananda vi teneva alcune anatre e polli e una volta alla settimana in quel cortile ripeteva una messa in scena per Robby. Questo durante la settimana si è comportato da ragazzaccio, diceva, afferrando un pollo per il collo. Poi sollevava il falcetto, gridava un'invocazione, Joy Ma Jagajanani. La lama lampeggiava e la testa del pollo saltava via e andava a fermarsi ai piedi di Robby con il becco aperto per lo stupore. A quel punto Robby scappava di sopra, ma incapace di resistere, infilava la testa tra le sbarre della veranda sul retro e guardava ammutolito il pollo decapitato che si agitava in giro per il cortile. Nityananda sapeva che Robby stava guardando e si dondolava sui talloni, accoccolato a terra, si lisciava i baffi e dava un tiro al suo biri. Dopo un po' sollevava verso Robby i luminosi occhi neri ammiccanti e puntando il dito verso la carcassa roteante diceva «Vedi, questo è quanto succede a comportarsi da ragazzaccio». Fu Nityananda che gli fece conoscere il giardino di fronte alla casa. Gli mostrò come succhiare il nettare acquoso dai gambi dei gigli e gli insegnò il trucco per catturare le libellule stringendo insieme le ali tra l'indice e il pollice. E soprattutto insegnò a Robby ad arrampicarsi sul mango in mezzo al giardino. Era un grande albero molto difficile da scalare, con un tronco che cresceva dritto e liscio fuori dal terreno per quasi 3 metri prima di dividersi in rami. Richiese molto esercizio, ma Robby riuscì a padroneggiare la tecnica proprio in tempo e la prima cosa che fece quando tornò dall'aeroporto con i genitori e i loro ospiti fu di arrampicarsi sull'albero. Quando raggiunse i rami più alti, urlò giù alla nonna, «Guarda, Mashi, guarda dove sono!» Lei guardò in alto e quando lo scorse disse malinconicamente, «Vorrei poterlo fare anch'io, forse da lassù potrei vedere Dacca». Quella sera, seduti in giardino prima di cena, la nonna chiese a Maya Devi quando sarebbero andate alla vecchia casa a prendere lo zio. «Quando vuoi», disse Maya Devi. E la nonna gridò con impazienza, «Domani, ci andremo domani, prima è, meglio è». Allora però, con sua sorpresa, il Shaheb intervenne. «No, non è un buon momento per andarci», disse. «La casa è nel cuore della città vecchia e all'alta corte è giunta voce che ci saranno dei disordini laggiù. Non è opportuno che ci andiate adesso». Mia nonna avrebbe disprezzato se stessa se avesse creduto al Shaheb. Si sporse in avanti, si batté sulle ginocchia e disse «Se ci saranno dei disordini è una ragione in più per salvarlo finché siamo in tempo. Sono venuta fino a Dacca per il suo bene e ora non intendo tollerare ritardi. Non mi faccio spaventare da piccoli disordini. Dobbiamo concludere questa faccenda al più presto possibile». se non che il Saheb si oppose seriamente, rovesciando il suo whisky per l'agitazione. Davvero, non è sicuro spingersi laggiù ora. Non posso permetterlo. Dovete aspettare qualche giorno. Fece silenziosamente appello a Maya Debi perché la facesse ragionare. Naturalmente ci andremo presto, disse Maya Debi con calma, tra pochi giorni. Una settimana non farà differenza per nessuno. Mia nonna ci penso su. Aspetteremo fino alla settimana prossima, disse, fino a giovedì. Il giovedì è una buona giornata. Questo è quanto, non un giorno di più.